si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Che non ci trovo niente da ridere. Io sto in un territorio adesso dove il terremoto c'è e sono convinto che quelle persone, vedendo una vignetta del genere, abbiano una sofferenza ulteriore. Cioè ancora scavano. La satira è una cosa e l'insulto alla comunità è un'altra. Cioè c'è tutto un limite, no? Per cui cioè io ti dico, ma come cazzo si fa che a fare una cosa del genere? Cioè, questo è un insulto a una comunità, a un popolo. E so, diciamo, esterrefatto, dai. 18:33 minuti, buonasera ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare con Alessio Maurizi. Lunedì torna Giuseppe Cruciani a quest'ora con la Zanzara. Noi ritorneremo nel weekend, nella collocazione il sabato e della domenica mattina. 800 24 00 24, la vignetta di Charlie Hebdo, sisma all'italiana. Penne alla salsa di pomodoro, penne gratinate, lasagne, l'avete credo vista tutti, una valanga di dichiarazioni, l'ultima forse quella dell'ambasciata di Francia, addirittura che dice non ci rappresenta, siamo vicini all'Italia. Poi c'è stata la rettifica dello stesso Charlie Hebdo, che ha fatto un'altra vignetta delle sue. Sono vignette, possiamo dirlo, l'abbiamo sempre detto, che non è che facciano ridere. Non è una comicità, non è una satira comica, è una satira estremamente urticante. Lo è sempre stata, anche quando prendeva di mira Allah e i predicatori dell'Islam radicale. Non è Charlie Hebdo che costruisce le vostre case, cari italiani, ma è la mafia. E questa è la replica. Poi, insomma, tra i primi a prendersela e ad andarci giù pesanti, Giorgia Meloni sul terremoto, una vignetta di Charlie Hebdo fatta da un cretino. Spiace non siano riusciti più a trovare vignettisti capaci. Anche qua una bottarella cattiva, perché si riferisce al fatto che sono stati ammazzati in un attentato e quindi hanno dovuto sostituire i nuovi vignettisti. Ma le vignette di Charlie Hebdo sono sempre state così, bisogna dirlo. Lo scrivono altri tweet, per esempio. Beh, c'è intanto Zingaretti, presidente del Lazio, che dice: voi siete liberi di fare le vignette che volete, io sono libero di dire vergognatevi. Gli risponde Fulvio Gilardi su Twitter: preferiamo essere sepolti da una risata piuttosto che dalle macerie, meditate governatori. Questa secondo me è la risposta da incorniciare. 800 24 00 24. Adesso invece dove andiamo? Andiamo a Roma, la parola di Di Maio sul caos, vero e proprio caos, che sta attraversando la Giunta Raggi. Noi ci siamo fatti nemici in tutta la città, ci siamo messi contro il sistema dell'acqua, contro il sistema dei rifiuti, contro le Olimpiadi. Quindi, signori, abituatevi al fatto che governare Roma significherà essere combattuti continuamente. Io reggo il convitoio per 5 anni, Marino è durato 2 anni e mezzo, la signora Raggi rischia di durare 6 mesi. Questo fatevi voi un attimo la verifica. Quando attaccavate direttamente Alemanno e dicevate ogni 5 minuti Alemanno dimetti, che adesso misuratevi su queste realtà. Il capo di gabinetto, tutto nasce dal capo di gabinetto, assunto con una procedura poi ritenuta non consona, non regolare, ma si poteva rifare la procedura, invece no, la Raggi scarica la Rainieri, la quale poco prima di essere scaricata dice: sono io che me ne vado, perché qua non si può lavorare, sentiamolo. Scriverò le ragioni per le quali ho preso questa decisione. Scrivete soltanto che io mi sono dimessa prima. La revoca non è ancora intervenuta. Le mie dimissioni sì. Questa è l'unica cosa che vi posso dire. Stai incontrando la Raggi? No, assolutamente no. Sto andando a recuperare alcune cose perché nella mia stanza ci sono ancora alcune mie libri. tende una mano inaspettatamente, ma forse neanche tanto, al Movimento 5 Stelle, a Virginia Raggi, De Magistris, il sindaco di Napoli. Che continua a ritenere che rappresentano una novità, anche se quello che sta accadendo a Roma credo che sia qualcosa di particolarmente grave. Oh, ieri il ministro della salute ai nostri microfoni, Beatrice Lorenzin, l'ha detto abbastanza chiaramente: se questa campagna sul Fertility Day ho sbagliato qualcosa, se ha urtato qualche sensibilità eccetera eccetera, la cambieremo, la modificheremo. Non ha detto la cancelliamo, perché il Fertility Day lo ha approvato come giorno in cui si celebra la fertilità il Consiglio dei Ministri qualche tempo fa, ma insomma sono arrivate le correzioni. Allora risentiamola. Poi sgombero subito il campo sulle cartoline. Allora, sì. Chi ha fatto queste cartoline? Aspetta, la campagna è costata 27.000 euro. 28.000 euro la questa campagna di comunicazione. Euro, queste cartoline. E questo è altro che ha fatto, sì, la direzione. Chi l'ha fatta non aveva nessuna intenzione di offendere. Dietro ci doveva essere il fronte retro con le spiegazioni. È una campagna, posso dire una cosa, non è piaciuta, la facciamo nuova. Sopportare prima di fermare l'esecuzione, chiedere soccorso a te che non ti do un motivo ancora per restare nella storia di una storia che non c'è. Lasciarsi un giorno, lasciarsi un giorno. Ignazio Marino, buon pomeriggio, buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a lei per aver accettato. Lasciarsi un giorno a Roma vale per valso per lei, forse sta per valere anche per Virginia Raggi? Io credo che in questo momento Roma abbia bisogno di una amministrazione severa e rigorosa, e quello che accade non può che dispiacermi, perché l'assessore al bilancio aveva ripreso quel progetto utile ai romani di liberare la città da quelle aziende che erano state costruite negli ultimi 20-30 anni ed erano diventati dei luoghi o per sistemare delle persone o comunque disperdevano risorse che invece devono essere concentrate sulla città. Mi spiego meglio: a Roma non serve una centrale del latte, a Roma non serve gestire una compagnia di assicurazione, a Roma non serve un centro fiori o un centro carni, a Roma servono risorse per riparare le strade, migliorare l'illuminazione, aumentare i posti negli asilo nido, e questo mi sembrava che fosse stato sposato in pieno dal nuovo assessore al bilancio, ma il fatto che abbia dato le dimissioni non fa sperar bene. Ma perché secondo lei il neo assessore al bilancio se n'è andato? Questo bisogna chiederlo all'assessore Minenna, che tra l'altro è una persona seria e equilibrata, e quindi avrà avuto le sue ragioni. È possibile che, come qualcuno dice, ci sia in atto un braccio di ferro all'interno del Movimento 5 Stelle tra il cerchio magico di Virginia Raggi e invece il direttorio Di Maio, la Casaleggio Associati eccetera, perché Minenna era un uomo vicino al, diciamo, al direttorio, ai 5, alla Casaleggio, invece se n'è andato, quindi avrebbe vinto la Raggi. Una risposta su un eventuale braccio di ferro all'interno del Movimento 5 Stelle io ovviamente non sono nelle condizioni di darla, e tra l'altro non ho neanche l'interesse a studiarla. Quello che invece molto importante per la città di Roma e un po' riassunto nello slogan con il quale io mi presentai agli elettori nel 2013 che non piacque ai partiti, uno slogan che diceva non è politica, è Roma. Sembra però, invece che le faide, le lotte, i contrasti politici per avere dei primati a Roma o in Italia prevalgano sull'interesse dei romani, e questo è sbagliato per ogni comune, ma è ancora più sbagliato per la capitale d'Italia. Quindi mi ha risposto, c'è in atto una guerra di potere secondo quello che lei può capire da fuori nel Movimento 5 Stelle? Io temo che da quello che si legge sui giornali, i contrasti, i conflitti, un sindaco che sostituisce 3 capo di gabinetto nei suoi primi 50 giorni, il capo di gabinetto è la figura di riferimento, la persona a cui ci si affida per tutti gli aspetti più importanti della gestione di un comune, e si immagini l'importanza di un ruolo come questo nella capitale di un paese del G7. Credo che questo indichi che si disattende quello che lo spirito della legge voluta nel 92-93, quindi più di 20 anni fa, da personaggi come Mario Segni, Giuliano Amato e l'allora presidente della Camera Giorgio Napolitano, che vollero con una legge legare direttamente il voto al sindaco eletto, proprio per consegnargli la possibilità di prendere delle decisioni nell'interno interesse della sua città. Ma quindi come si deve nominare questo capo di gabinetto? La domanda delle 100 pistole a questo punto. Ma questo è semplicissimo, il capo di gabinetto deve essere una scelta fiduciaria del sindaco, è così e deve essere assolutamente così. Ma allora come si spiega questo parere invece dell'ANAC, l'autorità di Cantone? Io sul parere del presidente Cantone non ho assolutamente, cioè sarebbe risultato illegittimo anche il capo di gabinetto, opinioni da esprimere, è evidente che il capo di gabinetto di un ministro o del sindaco della capitale o del sindaco di un'altra città deve essere uomo di fiducia, sembra che suona quasi male, deve essere persona di fiducia, cioè deve essere un professionista che abbia un percorso professionale, delle capacità e anche l'apprezzamento pieno del sindaco. Ma scusi, mi faccia fare questa domanda, quindi sarebbe stato, adesso lo dico a posteriori, giudicato illegittimo anche il capo di gabinetto che aveva scelto lei in base a questo parere di Cantone, o abbiamo capito male? Io questo non lo posso dire perché non ho letto il parere del presidente Cantone, ma credo che, ripeto, ci sono gli strumenti legittimi per poter scegliere una persona con carattere fiduciario, ma questo lo comprendono tutti. Lei si immagina, non so, il direttore generale della Fiat che non sceglie come capo del personale una persona di fiducia, insomma è normale, è la differenza appunto tra una politica politicante e una politica invece che vuole amministrare, una politica che considera il potere come sostantivo o una politica che considera il potere come verbo, poter fare, poter migliorare, poter cambiare. Ma secondo lei la Raggi è un po' di destra? Guardi, io non ho avuto pochissime opportunità di scambio con la sindaca Raggi quando era una dei 4 consiglieri durante il periodo del mio mandato nel consiglio comunale della capitale, e ha preso la parola pochissime volte. Non si è fatto un'idea, perché il suo collaboratore Raffaele Marra è un ex collaboratore di Alemanno e della Polverini, e sembra che abbia avuto una parte importante in commedia. Lei lo conosce Marra? No, non sicuramente lo avrò incontrato, perché so che nell'organico del comune di Roma, ma il comune di Roma ha 23.000 persone in organico, quindi non è neanche immaginabile che il sindaco possa avere un rapporto diretto e personale con ciascuno di essi. A questi si aggiungono oltre 35.000 dipendenti delle aziende del Comune di Roma. 800 24 00 24, ascoltatori e Ignazio Marino, ci fermiamo per un minuto, informazioni sul traffico e poi torniamo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Senta Ignazio Marino, ma lei sta preparando una qualche rentrée politica per settembre? Assolutamente no. In questo momento sono impegnato con la mia università americana, ma certamente su alcuni temi dirò quello che penso, come la mia convinzione che una riforma della Costituzione si deve fare con parlamentari che siano eletti con un meccanismo diverso. Fare una riforma della Costituzione con parlamentari che la stessa Corte Costituzionale ha dichiarato essere stati eletti con una legge anticostituzionale non le piace. Mi sembra . E poi io sono davvero per una abolizione totale di una delle due Camere, non per conservarla con 100 consiglieri regionali o sindaci indicati dai partiti e con l'immunità parlamentare. Senta, come vanno i rapporti col PD adesso? PD che insomma, l'ha praticamente fatto fuori a suo tempo a Roma. Io non ho diciamo rapporti con il Partito Democratico in quanto entità, ma non sono mai stato un uomo di partito. Ho molti rapporti con persone del Partito Democratico con i quali ho sviluppato rapporti di stima e di amicizia dal momento in cui sono tornato in Italia circa 10 anni fa, e alcuni addirittura con cui avevo rapporti di stima e di amicizia da molti molti anni prima. Uno di questi era D'Alema, no? Anzi, forse quello che ha contribuito di più a portarla in Italia, o ricordo male? Massimo D'Alema è stato una delle persone che quando vivevo e lavoravo come chirurgo negli Stati Uniti mi chiese di tornare in Italia e di impegnarmi nel settore della sanità pubblica, cosa che poi avvenne in quanto venne eletto senatore, e per molti anni, fui prima presidente della Commissione Sanità del Senato e poi presidente della Commissione d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale, che tra l'altro portò, come lei ricorderà, come molti dei nostri ascoltatori ricorderanno, alla legge di chiusura dei manicomi criminali e anche ad alcune inchieste importanti, purtroppo alcune divenute nuovamente importanti in questi giorni, perché indicammo una lista di circa 500 ospedali a rischio sismico nel nostro paese. Ecco, anche del terremoto voglio parlare con lei, però voglio farle un'ultima domanda che riguarda il passato. Lei, ripensando a questi anni alla guida di Roma, c'è qualcosa che non rifarebbe, qualche cosa di cui si è pentito? La panda, gli scontrini fiscali, piuttosto che le vacanze ai Caraibi quando non rientrò a Roma? Innanzitutto le vacanze ai Caraibi sono state una fantasia dei giornali e delle televisioni, che pubblicarono una foto che risaliva tra l'altro a un mare diverso, era l'Oceano Indiano, e di circa 5-6 anni precedenti. Insomma, lei era in vacanza nel momento in cui molti chiedevano la sua presenza a Roma, quando ci fu la questione del funerale. Diciamo che i giornali chiedevano la mia presenza a Roma per il funerale dei Casamonica, funerale al quale non ero stato invitato e del quale non sapevo nulla, così come ci fu molta polemica sul fatto se un sindaco che aveva rinunciato a utilizzare per motivi privati, cosa legittima peraltro, la sindaca Raggi credo la usi, così come la usarono tutti i miei predecessori per motivi privati, la macchina di servizio, se si può spostare con la propria automobile nella città dove è stato eletto. Mi sembrano davvero polemiche che oggi oggi il ricordo mi fa sorridere. Quindi non c'è niente che non rifarebbe di quell'esperienza? No, certamente non sono queste le cose importanti. Una delle cose che non rifarei, l'ho detto e l'ho scritto anche nel libro Un marziano a Roma, pubblicato da Feltrinelli quest'anno nel 2016, ad esempio io mi disinteressai completamente della scelta dei candidati dei partiti che sostenevano la mia candidatura, e molti dei consiglieri io li conobbi una volta eletti, una volta dopo, e questo sicuramente perché mi ero concentrato sul disegnare un programma che potesse far uscire Roma dal disastro economico in cui si trovava. Ricordiamo che Roma alla fine del periodo da sindaco di Francesco Rutelli e Walter Veltroni aveva raggiunto 22,4 miliardi di euro di debito che oggi pagano tutti gli italiani con un extra gettito di tasse di circa 500 milioni di euro l'anno. Quindi chi ci ascolta, sia esso a Trento o a Caltanissetta, ogni anno fino al 2044 dovrà pagare delle tasse in più, e quel debito venne reso ancora più grave durante gli anni di Alemanno, con quasi 850 milioni di euro di debito nelle casse del comune e 874 milioni solo nelle casse dell'azienda per i trasporti. Io mi concentrai su quello, sugli aspetti economico-finanziari. Tralasciò di vagliare le liste dei consiglieri comunali, cosa che tra l'altro, leggendo i giornali, sembra che stia accadendo adesso anche a Virginia Raggi. Senta, invece, sul terremoto, ho visto che lei sul suo sito ha scritto anche un post dedicato alla tragedia del Lazio. La notizia del giorno è la vignetta di Charlie Hebdo. Tutti hanno detto che le vittime sono causate dall'uomo e non dal terremoto. L'ha detto il capo della protezione civile Curcio, l'ha detto il vescovo di Rieti. Se lo dice Charlie Hebdo con una vignetta, si indignano tutti. Perché? Ma credo che la vignetta di Charlie Hebdo sia particolarmente violenta, e penso che in un momento in cui moltissime famiglie stanno ancora piangendo per questo gravissimo lutto, credo che il sarcasmo sia davvero fuori luogo. Insomma, stiamo parlando di persone che sono morte e di persone che hanno sofferto moltissimo, e coloro che sono morte tra l'altro in un modo orribile, perché schiacciate dal cemento e dal ferro. Ma a Roma è stato fatto un censimento delle case, degli edifici o anche degli edifici pubblici a norma antisismica nel periodo in cui c'era lei? Esiste una valutazione di tutti gli edifici scolastici di quegli edifici scolastici di cui è responsabile il comune di Roma. Per quanto riguarda tutti gli altri edifici pubblici, dei luoghi pubblici più importanti come gli ospedali, come tutti sanno, rispondono ad altre istituzioni, alla regione non al comune. Va bene, grazie, buona serata Marino, buona serata e buona estate. Grazie, per quello che resta. Grazie davvero. A presto. Allora, in chiusura un ascoltatore, Andrea da Milano, buonasera. Buonasera Alessio, ciao, piacere ciao. Di conoscerti. Senti, io sono veramente senza parole, anche Marino è un qualunquista pazzesco, cioè io penso, tu guarda che cos'è successo con la vignetta di Charlie Hebdo, sì. Adesso tutti indignati nei confronti di questi, quando poi è successo che hanno fatto delle vignette contro Maometto, quindi contro una religione, e a quel punto andava tutto bene, maledetti gli estremisti islamici che poi li hanno fatti saltare in aria. Guarda che è un'ipocrisia nettamente nostra, occidentale. Barbara Serra ha scritto su Twitter: se Charlie Hebdo insulta gli altri, ok, se offende noi invece no. Questo, colpito affondato. Questo è il senso, va bene, sono abbastanza d'accordo, grazie Andrea, buona serata, ciao. Grazie. Umberto da Pavia. Buonasera, ciao a tutti, buonasera. Ciao. Ecco, io sarei più o meno d'accordo con Andrea, non darei del qualunquista all'ex sindaco Marino, perché insomma è una personalità, è un personaggio veramente di spessore, bisognerebbe approfondire con lui, però il discorso è questo: indignarsi per queste vignette. Cioè, quando l'hanno fatto per gli altri, giustamente tutti quanti siamo indignati. Stessa cosa per quanto riguarda, perché non l'hanno fatto solo su Maometto, l'hanno fatto su chiunque, perché quella è satira. Satira accettata da tutti. Certo, in questo caso è pungente, come in tutti gli altri casi. Ha dato fastidio, non ha dato fastidio, bene. Però affondare così il coltello nella piaga, cioè, si dà ancora di più, secondo me, naturalmente. Devo chiudere una, però, devo chiudere. Una risonanza mediatica eccessivamente grande proprio per... Va bene, devo così. Chiudere, c'è il giornale radio, grazie, ci risentiamo subito dopo, 800 24 00 24. A dopo, ciao. Sono Gianluca Nicoletti, lunedì 5 settembre torna Melog. Dopo un'estate sicuramente non facile per tutti noi, sarò di nuovo in diretta per un confronto con i miei ascoltatori. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13. Melog. Ogni giorno i dubbi che verranno. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Cioè ancora scavano. La satira è una cosa e l'insulto a una comunità è un'altra, cioè c'è tutto un limite, no? Per cui cioè, io ti dico, ma come cazzo si fa che a fare una cosa del genere? Cioè, questo è un insulto a una comunità, a un popolo, che so, diciamo, esterrefatto, dai. 19-18 minuti, buonasera, ben ritrovati da Alessio Maurizio, ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare, 800-24-00-24. Allora, la vignetta di Charlie Hebdo sul terremoto in Italia, libertà di satira o una offesa anche alle vittime e ai parenti delle vittime. 800-24-00-24, coro unanime praticamente di politici scandalizzati, indignati dal PD a Fratelli d'Italia, Forza Italia, Nuovo Centrodestra. Tutti praticamente indignati per questa vignetta. Vogliamo però dire che queste vignette di Charlie Hebdo sono sempre state così, urticanti, molto urticanti, non particolarmente divertenti, non è che ci sia da sbellicarsi dalle risate vedendo le vignette di Charlie Hebdo, anche sono sempre abbastanza offensive, potenzialmente offensive per tutte, quando disegnano gli arabi e tutti quelli che credono in Allah come dei bombaroli, e così come quando disegnano gli italiani tutti come dei palazzinari irresponsabili o mafiosi. 800 24 00 24 da Roma assistono al crollo, quasi come un effetto domino, dei pezzi della giunta Raggi, gli ex candidati Giachetti e Meloni. Il problema è che la città è ferma, è paralizzata, girano a vuoto. Roma avrebbe bisogno veramente di meglio. Spero che adesso non diano la colpa al passato, perché questa è tutta farina del loro sacco. L'amministrazione è completamente ferma, finora non ha fatto niente, non farà niente nelle prossime settimane perché dovrà prima risolvere i problemi delle correnti. Siamo al paradosso di avere tutte le degenerazioni di un partito politico senza avere neanche lo statuto di un partito politico e quindi senza regole. Allora, ieri sera abbiamo intervistato uno dei seguaci di Hammer, il metodo Hammer, quello per il quale Eleonora e i suoi genitori hanno rifiutato le cure a base di chemioterapia che avrebbero potuto guarirla, lei che era malata di una leucemia, il signor Camilletti, che ha difeso l'approccio psichico, emozionale, del loro approccio alle cure delle persone malate. Lui non ha escluso che ci si possa, anzi ha detto, io mando le persone dal medico, anche dall'oncologo, se hanno un tumore. Bravo, ha fatto bene a dirlo. Poi ha chiamato un ascoltatore per tirare giù la chemioterapia, non serve a nulla, un'altra delle bufale che girano su internet. E allora vediamo se stasera Valerio, ma credo che abbia già chiamato, dopo lo sentiremo, citerà la fonte della notizia che ha riportato ieri sera. Intanto sentiamo però il primario di Padova che parla del caso di Leonora. Oggi al mondo, nei nostri paesi, oltre l'80% dei pazienti con questa malattia guariscono. Non solo guariscono, ma hanno una vita assolutamente normale. Lei ha scelto di non curarsi e la leucemia è una malattia mortale se non viene curata. Credo che la maturità, il fatto che possa scegliere indipendentemente, il fatto che sia perfettamente conscio di cosa vuol dire morire, questa è una cosa di cui non so se Eleonora ne fosse perfettamente conscia. Y saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canudo de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No china. Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canudo de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. Allora, è con noi il segretario del SIULPEL, uno dei sindacati dei poliziotti, Felice Romano. Buonasera. Ecco, abbiamo esordito così, con la linea che cade. Allora, adesso richiamiamo Romano. Era il suo il tutù? È caduto Romano, lo richiamiamo. Allora, dal sindacato di polizia SIULP arriva il parere che proprio non ti aspetti sul tema della legalizzazione. Dicono sì alla legalizzazione della marijuana. E, insomma, c'è da interrogarsi perché proprio le forze dell'ordine, che ne prendono parecchi di spacciatori, siano giunti a questa conclusione. Vediamo se abbiamo Romano, se ce l'abbiamo bene, se no andiamo con gli ascoltatori. C'è. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, intanto le voglio chiedere se questo che è uscito oggi sui giornali è un parere in qualche modo suo, personale, anche se in veste di segretario del SIULP, o del sindacato dei poliziotti. Beh, sicuramente è il mio parere personale, condiviso dalla stragrande maggioranza degli appartenenti al SIULP, con qualche differenza, perché gli approcci conservatori sono anche nel SIULP, non solo altrove. Senta, perché dite sì, dice lei sì, e la maggioranza degli aderenti al sindacato, secondo lei, dicono sì alla legalizzazione della marijuana? Guardi, partendo da un assunto semplicissimo. Noi abbiamo un maestro che si chiama Darwin, il quale ci ha insegnato che né i cambiamenti non sopravviveranno, né quelli più forti né quelli più intelligenti, ma solo coloro i quali sapranno cogliere i cambiamenti e adeguarsi. Da questo insegnamento abbiamo fatto una verifica. Da quando c'è la lotta al contrasto dello spaccio delle sostanze stupefacenti leggere, cioè circa 40 anni, noi abbiamo impiegato risorse ingenti in termini di uomini, di tempo, di mezzi e anche economiche, con un sovraffollamento delle aule giudiziarie. È un risultato che non è scoraggiante, di più. Sì, perché non si è arrestato assolutamente il consumo, non sono diminuiti gli spacciatori. Però qualcuno pensa che gli spacciatori comunque siano delle persone socialmente pericolose. Non lo sono, secondo voi? Assolutamente sì. Ma lo spacciatore esiste se c'è un traffico illegale. Se c'è la possibilità di accedere a queste sostanze in un circuito che è legale, controllato, e che ha determinate caratteristiche, come succede negli altri paesi, già questo eliminerebbe gran parte degli spacciatori. Beh, certo, in caso di una legalizzazione, teoricamente, gli spacciatori dovrebbero tutti perdere il posto, ma secondo lei, dall'alto della sua esperienza sul campo, funzionerà o resterà un mercato parallelo, un mercato nero, un mercato illegale? Sicuramente non debelleremo il mercato illegale nell'immediato, ma alla lunga e nel breve periodo, io dico, sicuramente sarà debellato. Ce lo insegna anche qui l'esperienza. Fino a quando c'è stato il monopolio di Stato sulle sigarette, e come tutti sappiamo fa molti più morti delle droghe leggere, esisteva il contrabbando. Da quando la vendita del tabacco è stata liberalizzata, il contrabbando è andato man mano scemando fino a sparire. Senta, voi ne vedete per strada di tutti i colori, no? Immagino, insomma, di gente anche fatta di varie fattitudini, diciamo così. Sono gravi i danni, secondo lei, che fa la cannabis o no? Guardi, come sempre tutto dipende dall'utilizzo che uno fa di queste sostanze, ma la cosa più grave è nell'approccio conservatore, cioè nel negazionismo. Noi diciamo che è vietato, per cui abbiamo risolto il problema. In realtà poi il problema non si risolve, come tutti sappiamo, è proprio che nessuno pensa alla salute dei nostri giovani. Il dato che noi abbiamo oggi è che ha aumentato il consumo e si è abbassata vertiginosamente l'età dei ragazzi che approcciano a questa roba, con un elemento che è di un allarme enorme. Dentro le sostanze stupefacenti leggere, anche nei cannabinoidi, nell'hashish, spesso noi nelle sostanze che sequestriamo, che poi comporta l'invito ad andare dal prefetto per le eventuali sanzioni amministrative, cioè della sospensione della patente, dove il giovane dice vabbè non lo faccio più, e si conclude così. Impiega tutto un apparato dello Stato. In queste sostanze spesso noi troviamo di tutto e a volte persino gli escrementi animali. E in tutto questo e la questa salute... certo, tutte cose che possono far male. Senta, lei ha parlato di sequestri, la redazione me l'ha chiesto assolutamente di chiederglielo. Cioè vogliono sapere che fine fa tutta la roba che sequestrate, perché in effetti viene distrutta come? Perché non è che si vedano in giro dei falò, dove la fate sparire? Ci sono gli inceneritori per fare questo, quando per le sostanze leggere, soprattutto quando il principio attivo è molto blando. Cioè ci sta dando una dritta, bisogna andare a ridosso delle discariche, degli inceneritori per trovare qualcosa. Beh, non credo, perché con tutto quello che si generisce di lì, forse lo sballo ci sarà nel fascino del proibito, ma sarebbe uno sballo molto più pericoloso. Quindi lei dice che le sostanze, cioè la cannabis, viene contaminata da altre cose ed è molto peggio, quindi diventa ancora più pericolosa. Quali sono le altre sostanze più pericolose ancora della cannabis che sono in circolazione, su cui magari invece conviene concentrare l'attenzione? Sicuramente queste nuove sostanze di droghe leggere che vengono presentate come cannabis, ma sono quelle artificiali, quelle chimiche, dove si stanno aggiungendo degli additivi chimici a delle erbe essiccate di cui non si conosce spesso la natura, per dare la sensazione dello sballo. Vorrei ricordare che negli ultimi 40 anni le droghe leggere non hanno mai causato decessi. Negli ultimi 2 anni, da quando sono nate queste droghe sintetiche, purtroppo registriamo già centinaia di decessi, con anche qui un elemento importante. Negli Stati Uniti, dove si procede ancora con un metodo conservatore, cioè vietare le sostanze che vengono di volta in volta rinvenute in queste erbe che vengono poi consumate, fumate, e che vengono vendute sul mercato come concimi, come deodoranti o come purpurri, eccetera, il risultato è che chi le produce cambia sostanza chimica, ma immette sempre sul mercato, per lo più agenti nuovi che di cui non si conosce nella composizione e negli effetti che produce, e questo è estremamente pericoloso. Mentre in alcuni paesi europei, penso all'Olanda, alla Spagna, ci sono centri nei quali, perché io quando parlo di legalizzazione non intendo più droga per tutti, ma intendo un circuito controllato, il cui principio attivo sia puro, sterilizzato, su una falsariga da dare alle persone che ne vogliono fare uso e che comunque devono trovare questi circuiti vicino a presidi medici e a mezzi pubblici, perché chi va a fare uso di queste cose poi non si deve mettere alla guida, come invece spesso succede per chi le consuma illegalmente. Questo è giusto sempre ricordarlo e dirlo, perché possiamo anche ridere e scherzare. Secondo me sì, perché sono d'accordo con lei. Secondo me, ma è il mio punto di vista, la cannabis non ha mai ammazzato nessuno, però mai farlo prima di mettersi alla guida, prima di lavorare, prima di fare delle cose importanti. Grazie Romano di essere stato con noi. Quindi sindacato di polizia SIULP che si schiera a favore della legalizzazione della cannabis, 800 24 00 24. Ascoltatori, vi ha convinto questa posizione oppure no? Ci sentiamo dopo la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. funk you up. Uptown funk you up. Cause Uptown funk don't give it to you. Cause Uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. 19:35 minuti, eccoci qua, ascoltatori, ben ritrovati. Colgo l'occasione per ricordare che ci ritroveremo con Si può fare a partire dal weekend prossimo, sabato e domenica mattina, quando tutto il palinsesto di Radio 24 sarà tornato ai ritmi soliti, ai ritmi canonici, e quando lunedì sera tornerà a questi microfoni a quest'ora Giuseppe Cruciani con la Zanzara. 800 24 00 24. Ci chiama Marco da Siena. Buonasera e benvenuto. Buonasera, dottor Maurizi. Eccoci. Una riflessione volevo fare, sempre con riferimento alle vignette del satirico francese. Sì. Questi hanno sempre fatto delle vignette cattive, proprio delle volte urticanti davvero, come ha detto lei, però io le volevo fare, le volevo conoscere il suo parere, ma sì, come mai, perlomeno pare a me, che ci si indigni molto di più delle vignette che di tutti coloro che hanno responsabilità quando accadono queste cose qua, politici compresi, ma certo, perché ma sono stati primi a... Marco, perché a indignarsi sono proprio i politici in questo, qualcuno l'ha scritto chiaramente rispondendo ai politici che su Twitter, miracolo di Twitter, uno può dire faccia direttamente a un politico quello che pensa, e lo hanno scritto, siete voi che dovreste vergognarvi per quello che non avete fatto nei vostri ruoli, per esempio per quanto riguarda la messa in sicurezza, no? E quindi è chiaro quello che dice lei, io sono d'accordo. Appunto, ecco, mi conforta, perché mi sembrava che fosse, come dire, tutto il paese si è indignato in questa vignetta, loro le hanno sempre fatte queste vignette qua, ci sono morti anche... Ma non è tutto il paese che si è indignato, io credo che si sono indignati i politici, si è indignato il sindaco di Amatrice perché sta lì, si indigna chi in questo momento ha dei ruoli relativi al terremoto, alla ricostruzione, eccetera, perché... è doveroso prendere questa posizione, ma è ipocrita però. Devo dire. Io capisco, ripeto, questi hanno sempre fatto delle vignette così cattive, no? E bisogna, è tutta la vita che le fanno così. Anche il Male, non so, lei si ricorderà, era un giornale abbastanza peso, no? Diceva delle volte la verità, insomma, ecco. Va bene, grazie Marco, buona serata, grazie. Fabrizio da Pisa. Sì. Pronto, buonasera. Buonasera. Allora, innanzitutto complimenti per la trasmissione che in quest'ultimo periodo ho seguito, perché sono spesso in macchina a quest'ora e quindi vi ho seguito. Grazie. Un saluto agli ascoltatori. Io ho un parere leggermente diverso, cioè nel senso che al di là ora dell'indignazione per questo o per un'altra vignetta, però bisognerebbe anche ricordarsi che la libertà dell'uno finisce dove inizia la libertà dell'altro, per cui se ci sono dei regimi, se ci sono delle cose, dei potenti da criticare, è giusto che ci sia la satira anche forte, però a volte questi vignettisti vanno anche contro cose che sono molto importanti per altri, possono essere sacre come la religione, altre cose a volte anche in maniera che può apparire gratuita, ecco, quindi diciamo hanno una licenza che si sono dati da soli che dovrebbero un attimino forse anche dosare qualche volta, ecco, perché non è detto che tutto quello che loro disegnano possa essere effettivamente... Ma non potrà mai piacere giusto a tutti, non potrà mai rispettare tutto quello che fa la satira, quello che disegnano i vignettisti, non potrà mai essere così, ci sarà sempre qualcuno che si ritiene offeso. Però se la satira, se non offende nessuno, non serve a niente, però io di questo sono fermamente convinto. Comunque grazie Fabrizio per il suo intervento, anche perché ovviamente ognuno poi mantiene le sue convinzioni. Valerio da Treviso, buonasera. Buonasera, ciao. È quel Valerio lì? Sì, sono io, ciao. È quello di ieri sera. Allora, quello di ieri sera, ti sei calmato? No, io sono calmissimo, ripeto solo una cosa, perché per spiegare, ieri sera tu hai fatto un intervento nel quale dicevi che l'80%, se ricordo bene, dei medici rifiutano la chemioterapia. Per la precisione, il risultato è dell'81%. 81%. E io ho detto che se non citavi la fonte di questa notizia, non valeva. Non assolutamente valeva. Sono d'accordo anch'io, e anzi voglio fare un atto di chiarezza, perché bisogna essere molto chiari. Allora, che la chemio sia una forma di cura a me sta benissimo, ma che sia considerata l'unica forma di cura forse anche no, anche e soprattutto per i gravi effetti collaterali. Però adesso vale, non giriamo intorno al palo, no, nessuno no, ha detto allora, che è allora, l'unica perfetto. Forma di cura. Io ti ho detto, mi devi citare la fonte di questa notizia, altrimenti è una di quelle bufale che girano per screditare le cure sono ufficiali. Dati, sono dati che addirittura, per darti un'idea, la rivista Nature Qual è la fonte di questa notizia? Allora, la fonte di questa notizia è una ricerca scientifica che è stata inserita nel grande database medico ufficiale del mondo, www.pubmed.gov, ed è a firma di Graham Morgan, professore associato di radiologia al North Shore Hospital di Sydney, di Robin Ward, professore dell'University di South Wales, di Michael Barton. Va bene, va bene, ok, adesso non li elenchiamo tutti. No, è giusto. Robin Ward fa parte del comitato che stila le raccomandazioni sull'efficacia dei farmaci per il governo australiano. Perfetto, qual è la notizia esatta però? Perché questa è importante, io mi sono documentato. Allora, la notizia esatta è questa. Allora, sono stati fatti delle ricerche a livello mondiale, perché se mi dai un attimo di pazienza, allora questo ricercatore, un dottor Ulrich Abel, epidemiologo tedesco della Heidelberg e Mannheim Clinic, ha chiesto a 350 centri medici sparsi nel mondo l'invio di tutti gli studi ed esperimenti clinici sulla chemioterapia. L'analisi durò parecchi anni. Risultò che la non disponibilità di riscontri specifici scientifici in grado di dimostrare che la pratica della chemio prolunghi la vita in modo apprezzabile. Questo non c'entra nulla, Valerio, stai girando intorno al palo. Mi devi dire la notizia che tu ieri hai detto, perché sei partito di lì, ed era notizia ovviamente scioccante. Allora, permetti, L'80% dei medici non usano la chemioterapia. Perfetto. Allora, cosa è successo? È successo che un'inchiesta... Hai ancora 2 minuti, perché poi devo dare la linea ad altre cose. 2 minuti. Ti guarda, se permetti, sto leggendo perché è una documentazione veramente importante. Però non abbiamo tutta la sera, vai. Sì, ho capito, però se mi stai chiedendo dei dati. Allora, alcuni scienziati del McGill Cancer Center di Monte inviarono a centinaia di medici esperti un questionario per determinare il loro grado di fiducia nelle terapie da loro applicate. Allora, il risultato te la sintetizzo molto semplicemente, che l'inaccettabile a causa dell'inefficacia, dell'elevato grado di tossicità, risultato eclatante, 81% degli oncologi intervistati in caso non si sarebbe fatto somministrare. Allora Valerio, io mi dispiace, ma la devo, a questo punto la do io la notizia, perché diciamo che ci stai girando un po' intorno. Allora, la notizia, io mi sono documentato, è questa, la notizia è che in questo centro del Canada è stato fatto un sondaggio su 118 medici, 79 hanno risposto, 64, quindi l'81%, come dici tu, ha detto che non avrebbe utilizzato quel tipo di chemioterapia per curarsi il tumore in quel momento. Bisogna però dire una cosa, intanto quindi non erano i medici, ma era una cosa particolare in Canada. Bisogna dire che era il 1985, il tipo particolare di chemioterapia di cui si parlava era un tipo di chemioterapia nuova, che mi pare si chiamasse cisplatina, che era sperimentale. In quel momento i medici dissero: io una sperimentazione su di me non la farei. Era un medicinale molto tossico ed era in fase sperimentale. Di lì la risposta maggioritaria di medici che non l'avrebbero utilizzata su di loro. Di lì a dire che i medici non utilizzerebbero la chemioterapia in caso di si ammalasse loro di tumore, capisci che ce ne corre. Quindi è lì che casca l'asino. Posso ribatterti? Sì, in un minuto, perché poi devo dare la linea a un'altra. Secondi, scusami, tu che sei un giornalista e quindi hai modo di accedere a dati che il normale popolo questo chiunque lo trova su internet. Guarda, io mi sono documentato. No, ma non sto parlando di internet, io voglio dati ufficiali. Non, di internet, come hai detto tu ieri, tutti possono scrivere quello che vogliono. No, bisogna però controllare, bisogna essere sicuri di quello che si dice, questo sì. Tu sei un giornalista, hai modo di accedere, mi dai per favore o ti informi per favore di quelle che sono le percentuali di guarigione dopo i 5 anni della chemio? Va bene, grazie Valerio, questo non mi interessa per niente, perché l'argomento che hai sollevato tu era tutt'altro ed era un argomento fasullo. Oh, adesso è il momento di rilassarci decisamente, vai. Non so se sono pazzo o sono un genio, faccio i selfie mossi alla quei pequeño, non mi fumo canne, sono anche stemio, io non faccio brutto, ma col trattore in tangenziale andiamo a acqua minerale. Andiamo a comando. E finalmente anche a Radio 24 è con noi Fabio Rovazzi. Ciao Fabio. Eccolo. Ciao a tutti. Credo che sia la prima intervista a Radio 24 o c'è un passato? No, l'hai già fatta un'altra. Mi dicono... Ne ho fatta un'altra, non mi ricordo quando. Non però... abbiamo la primizia, vabbè, dai. Fabio Rovazzi. È la prima volta che sento questa canzone. Ti emoziona a risentirti? No, per niente, mi imbarazza molto. Ti imbarazza, l'hai detto, non sono un cantante, ma canto, fai anche altre cose, fai video soprattutto su YouTube, nasci così? Esatto, più su Facebook che su YouTube, però nasco più come videomaker che come cantante, però vabbè. Senti, il tuo è un nome d'arte intanto o è un nome vero? No, in realtà il mio cognome non è Rovazzi, il mio cognome è più ampio di Rovazzi, cioè Rovazzi è una parte del mio cognome, sì. Però non voglio rivelare. Non diciamo, ecco, assolutamente no. Lasciamo un velo di privacy. È un segreto perché per sempre. In questo momento, tra l'altro, non hai certo bisogno di pubblicità, perché anzi, ti stanno tutti addosso. Devo dirti una cosa, prima sì. È la prima intervista, credo, che faccio che interesserà ai miei nipoti, ne ho tre abbastanza grandicelli sui 10-12 anni e insomma te l'aspettavi di diventare l'idolo dei bambini prima di tutto? Assolutamente no, non ho mai avuto il pubblico di ragazzini, comunque ragazzi molto giovani, non l'ho mai avuto perché non ho mai fatto prodotti per loro, ma devo dire che è molto bello perché c'è molto più affetto, molto più mi sta divertendo molto questa cosa, mi fa super piacere, di sicuro è l'ultima cosa che mi aspettavo, è di prendere i bambini con quella canzone, anche perché il mio intento era principalmente quello di fare l'opposto del mondo rap, quindi volevo prendere un po' il mondo rap, ma niente, ho preso i bambini. Ecco, appunto, perché facciamo un po' il processo creativo, no? Cioè, ritorniamo sì. A quel momento lì, quando hai pensato di fare questa canzone, tra l'altro c'è dentro anche, dal punto di vista musicale, so che ci tieni a dirlo, no? Cioè, dal punto di vista vocale magari non molto, quasi ti vergogno, esatto. Dal punto di vista musicale invece sì, c'è un lavoro. Beh sì, musicale sì, c'è un bel lavoro, abbiamo collaborato io e Mark and Cremont nel far la base e dal punto di vista di produzione musicale abbiamo fatto un ottimo lavoro, secondo me suona da paura ed è una cosa che funziona anche molto nei locali, è bella, diciamo, un bel prodotto. Ecco, ma cosa avevi in testa di fare? Cioè, dove pensavi di arrivare? A chi volevi arrivare? Ma guarda, in realtà è nato e continuerà ad essere un divertimento, cioè è nato come facciamo qualcosa di divertente tra di noi, poi se va bene, bene, se va male, pazienza, però ci siamo divertiti, questo è l'intento principale. Penso che anche il fatto che abbia funzionato è anche un po' questo, si nota un po' la spontaneità della cosa. Si parte leggeri, ecco, partendo leggeri si può arrivare, questa è già una prima lezione, si può arrivare anche molto lontano. Ma cos'è un elogio del trash, degli sfigati o no? Ma in realtà no, io volevo, come ripeto, volevo dire il contrario di quello che dicono i rapper di questi ultimi tempi. Può essere anche un po' l'inno dei nerd, può essere anche un po' una lettura da Papa Boys del rap, può essere tante cose, in realtà è totalmente no sense, l'abbiamo buttata giù a caso ed è venuta come è venuta, però posso dirti un sacco di significati che sono venuti fuori dopo. Per esempio... Ma non lo so, tipo il nuovo rapper che dice cose fantastiche per i ragazzi, che è contro le droghe, c'è sempre uno del una della pubblicità progresso del Ministero della Salute. Esatto, cosa che non è di realtà. Però non tu è così sei amico dei rapper, tra l'altro, perché hai collaborato con FedEx e J-Ax. Sì, siamo in squadra insieme, siamo in Utopia, siamo io, Fede Ax, siamo tre grandi amici, tre grandi collaboratori e stiamo lavorando un sacco di progetti. Sì, sono dentro il mondo rap, non sono un rapper, anche se vengo definito così anche su Wikipedia, non so per quale motivo, però sì, diciamo che mi trovo bene anche in quel mondo lì. Ma cosa c'è del mondo rap che in qualche modo volevi prendere in giro, qualcosa che volevi criticare anche? Ma no, ma fa molto ridere il fatto che comunque si continui a inneggiare molto al fatto di drogarsi o cose del genere, mi piaceva vedere un po' com'era la reazione quando fai il contrario e secondo me faceva molto ridere, insomma, al posto di dire sboccio Moe nel locale, dire sboccio acqua minerale, una cosa che faceva veramente super ridere, quindi e il balletto? Il balletto, guarda, è una cosa stupida che facevamo tra amici. L'avevo visto sul web da qualche parte anni fa e boh, ci faceva mega ridere, abbiamo voluto inserirlo. L'avete buttato dentro così, senza pensarci. Non ha una storia particolare, però è un balletto, insomma, che fa molto ridere. Andiamo a comandare, avrà un sequel? Vai avanti. Allora, no, non voglio fare un follow up perché, come la storia ci insegna, i follow up non funzionano mai come la hit precedente, quindi non voglio fare una cosa, non voglio fare un follow up. Sto lavorando a una cosa nuova, che è una cosa un po' diversa, però sempre sulla stessa linea musicale, diciamo. Uh-huh. E quindi tra un po' vedrete, insomma, quello che viene fuori. Quindi teniamoci pronti, teniamoci pronti. Senti, e invece il rapporto, sì, con la politica arriva quando Salvini canta la tua canzone, fa la tua imitazione. Che cos'è che fa esattamente sul palco di una delle feste estive della Lega? Ma balla in maniera molto discutibile la mia canzone. Io non sono uno che non vuole mai trattare di politica. Non ti interessa? Sempre... No, non ne voglio parlare, non mi piace rendere pubblici i miei pensieri, eccetera. Ti dico, ho sempre evitato questa cosa, alla fine questa cosa è venuta da me, con Salvini che balla la mia canzone, però non vorrei dirti poi i miei commenti, è una cosa che mi fa super ridere comunque. Ho riso un sacco. Ce l'abbiamo Salvini forse? Sì, sentiamolo, vai, sentiamo come si è esibito con Andiamo a comandare. Beh, in effetti la ruspa in tangenziale, beh, riprende il tuo trattore in tangenziale, ma ti sta simpatico Salvini? Beh, è un personaggio molto strano, non si capisce bene che cosa stia facendo e qual è il suo ruolo all'interno dell'Italia, però mi sta simpatico, dai. Senti, ma tra i commenti più svariati che ho letto, sì, ti giuro, è vero, su Facebook della tua canzone, ho letto, sì, qualcuno che diceva che gli sapeva un po' di un inno fascista, cioè di una canzone fascista. Oh mio Dio, no, assolutamente no. Andiamo a comandare, no. Forse non avevano capito bene, pensavano che fosse una cosa seria, andiamo a comandare, molti su Roma. Hanno tentato di tirar fuori questa lettura politica della canzone, ma no, non ti assicuro che no, non c'è. Senti, invece il tema della beneficenza che ti accomuna, sì, di nuovo con Fedez e J-Ax, perché avete voluto donare una parte degli introiti, no, della canzone ai terremotati, com'è andata? Bene, sta andando bene, pezzi comunque al di là di questa iniziativa comunque sono più scaricati in Italia, quindi diciamo che abbiamo dato un bel boost alla cosa, sta andando bene. Ma siete riusciti a controllare quanto state donando veramente? Perché anche questa è una questione. Ma in realtà non so esattamente le cifre, io so che comunque ne vendiamo parecchi, quindi penso che stia andando molto bene la cosa. Sì. Diciamo che ho deciso di donare questa cosa perché era il mezzo più immediato e più veloce che avevo a disposizione, il più forte che in questo momento ho, mi pareva giusto donarlo a queste persone, insomma. Sì. No, perché hai sentito quello che ha detto Fiorello qualche giorno fa a proposito dei concerti, sì, per la beneficenza? Ha detto che lui non si fida più di tanto perché togli le spese per quello, per quell'altro, non resta mai molto e lui non è convinto. C'è un rischio a fare questi concerti? Ma allora io trovo che nel 2016 possiamo dire che ci sono metodi molto più veloci e immediati per donare soldi e non c'è forse bisogno di organizzare eventi a scopo benefico. Quindi dai ragione a lui, a livelli proprio di tempistica, cioè adesso la gente è senza casa, è al freddo di notte, ha bisogno in questo momento di ricevere donazioni in questo istante, non tra 10 giorni, il tempo di montare il palco, mettere in piedi l'evento, eccetera. Quindi io credo che la nostra scelta è anche molto più immediata rispetto a quella che magari hanno preso altri. E quindi da un lato appoggio, dall'altro comunque ogni cosa, ogni azione benefica penso che non vada criticata, anzi io ammiro comunque chi si mette in gioco quando c'è bisogno, insomma. Senti, ma adesso mi faccio portavoce del paese intero, il trattore in tangenziale, no? Ma che cos'è? Che significato ha? Ma allora, guarda, non ha significato, però ne ho trovato uno. Sì. Allora, il trattore quando va in tangenziale, non so se mi è mai capitato di incontrare un trattore in tangenziale, sì. Crea una coda. Tutti dietro perché lui va. E chi è in piedi, cioè davanti a questa coda? Il trattore, quindi alla fine è lui che comanda. È lui che va a comandare, va bene. Grazie. Comunque, Fabio, volevo dire agli ascoltatori che la mia voce è così perché l'ho persa, quindi non vi preoccupatevi, non sto morendo, sono in vita. È solo una scusa per non cantare, andiamo a comandare Radio 24, esatto. A presto, grazie, ciao Fabio. Ciao. Non so se sono pazzo o sono un genio, faccio i selfie. E allora siamo in chiusurissima, abbiamo ancora il tempo forse per un ascoltatore. Roberto da Milano, buonasera. Ciao Alessio, sono l'ultimo ascoltatore della stagione, giusto? Sì, beh insomma, lunedì si riparte la radio, poi non si ferma mai, vai. No, volevo fare una considerazione veloce, poi tirare. Noi siamo campioni mondiali del divertiamoci col posteriore degli altri, per quanto riguarda le vignette, sì, e per le menzogne. Perché? Il sindaco di Amatrice, invece di indignarsi per le vignette, per indignarsi della giunta sua o precedente alla sua, che secondo le ultime di stampa ha combinato questa combinata. Sì, o anche semplicemente spiegare perché è stato affisso quel cartello sulla scuola, no? Nel quale si diceva che erano fatti lavori sulla vulnerabilità sismica dell'edificio, quando non era vero, perché quella è proprio una balla. Chi l'ha messo quel cartello? Questa è una domanda che andrebbe fatta al sindaco di Amatrice. Infatti, vabbè. Ci sarebbe da fare queste domande a questo signore. Non le vignette di Charlie Hebdo. Grazie, no, Roberto, grazie. Ciao a tutti e buone ferie allora per te. Ma no, sì, io poi ricomincio a lavorare. Io torno, lo ripeto, con Si può fare nel weekend della settimana prossima, la mattina, il sabato, la domenica mattina. Invece dal lunedì a quest'ora, su questi microfoni, torna la Zanzara. Io voglio ringraziare la super redazione di Radio 24, fatta da Riccardo Poli, Riccardo Buccero, Cristian Goldoni e poi vabbè Roberta Frisani, che è stata in regia tutte queste sere. Grazie a tutti e agli ascoltatori che ci hanno seguito. Ci risentiamo quando ci sentiamo, abbiamo detto tante volte in tante occasioni diverse su Radio 24. Grazie a tutti, ciao, buona serata da Alessio Maurizi. Ciao.